pregiudizi che i due sessi si scambiano vicendevolmente, soprattutto a danno di quello, diciamo, che subisce da parte del potere una pressione maggiore. Questi sono due film di due autori, secondo me, che io, ecco, come critico, ma anche come spettatore, seguo davvero con interesse. Adesso, anche è in pista da parecchio tempo di Adele Turchi, però entrambi secondo me sono due autori di cui sono avido, sono curioso di capire che film faranno successivamente. È una cosa che una volta succedeva con i registi italiani di qualche decennio fa, adesso ha mercato veramente, ma questi due sono due registi di cui sono molto curioso, di cui ho una grande ammirazione e il cui talento mi riempie. Ecco, vedo, quando esco dai loro film ne esco riempito di qualcosa che non avevo prima. Bene, bene. Mario, è sempre un piacere e a questo punto un abbraccio, auguri, in bocca al lupo e ci risentiremo sicuramente nel corso dell'anno. Molto volentieri, grazie a te Federico dell'attenzione di questa bella iniziativa che tu coltivi ormai con una tribù, con un esercito di cinefili sempre più, diciamo così, autorevole. È sempre più, sono bello di questo referendum, se ne parla sempre di più nel corso del tempo. Naturalmente cercherò di, sarò curiosissimo di capire quali sono i cinque che poi avranno totalizzato il maggior numero di segnalazioni. Certo. Un abbraccio Mario. A te, Ciao. presto. Con Fabio Fersetti per un bilancio dell'annata cinematografica 2019 e anche per sapere i suoi cinque film preferiti tra quelli usciti in sala. Fabio, ben trovato e auguri. Auguri a tutti, ben trovati. Raccontaci la tua. Allora, vogliamo partire dai cinque film, è una cosa, sono cinque stile di sangue, perché vorrei fare i 20 film, invece neanche i 10, 5, è una cosa micidiale. Ora, facendo ingiustizia da tutte le parti, perché è Per così, forza. diciamo, seguendo un po' il cuore, andando di slancio, beh, non in ordine ovviamente, non siamo a fare classifiche, ma fra i miei cinque film del cuore dell'anno ci sono sicuramente Il ritratto della giovane in fiamma di Céline Sciamma, una sorpresa con tutto che ho adorato anche gli altri film della Sciamma, ma questo mi è veramente una crescita esponenziale di maturità, profondità, capacità di dominare un tema che poteva scivolare veramente da tutte le mani. Infatti parte anche incerto e infine invece poi veramente decolla. Oro verde di Ciro Guerra, grande colombiano, ha fatto un film magnifico e che credo appunto se ne siano ricordati in poco, ma per me è uno dei più bei film dell'anno. La nascita della tragedia nella Colombia anni 60-70, come dire, è come se fossimo ai tempi della Grecia veramente del mito, però invece è una storia di spaccio, di indigeni si sbranano fra di loro. Un mercato che parte dagli americani e poi viene insomma preso in mano saldamente da loro, però a che prezzo? Film magnifico, veramente uno dei grandi film dell'anno. Altro grandissimo film, anche perché, come dire, cambia veramente molto. Cioè, i grandi film sono anche quelli che cambiano le regole del gioco, insomma, che le impongono di nuove, magari non le cambiano, ma fanno vedere che si può fare un documentario anche così. Ecco, Selfie di Agostino Ferrer, veramente un altro colpo al cuore clamoroso, una lezione di stile, di etica, di umanità profondissima, fatta insieme a questi due ragazzi, guidandoli, naturalmente mettendogli in mano degli smartphone per fare il loro film, insomma, facendolo con loro e per loro e ribaltando l'immagine sedimentata in questi anni di cinema e serie televisive su Napoli, ecco, esce proprio che hai visto qualcosa di completamente diverso e al limite appunto la storia è talmente universale che potresti essere in una qualsiasi periferia del mondo, potresti essere a Manila, potresti essere a Managua, potresti essere in mille altre città, non cambierebbe molto, salvo che hai l'umanità irripetibile di questi due ragazzi, insomma, si mettono in gioco e arrivano anche loro, tirano fuori delle emozioni e non solo delle emozioni, come sarebbe facile, non puntano solo sulle emotività, c'è cioè un'intelligenza, una capacità di scavare in fondo alla loro condizione che lascia veramente sbalorditi. Non posso non citare anche La vita invisibile di Euridice Cosmau, altra grande, ci metto anche molto la sorpresa, io confesso di aver ignorato fino a ieri Karim Ainuz, questo stranissimo regista brasiliano di origine algerina, quindi molto anomalo anche proprio per storia personale e professionale, che ha fatto questo film ispirato a un romanzo di una scrittrice brasiliana, insomma anche lì con la capacità di fondere melodramma, antropologia e uno sguardo bellissimo sul mondo femminile fatto appunto da un uomo, che non è da poco. Siamo a 4, se non sì, sbaglio. Sì. Beh, il quinto, insomma, è Il traditore di Bellocchio, e anche questo è inevitabile citare. Comunque uno dei grandi film dell'anno. È forse un film in parte di genere, è un film che usa anche delle formule, sicuramente è un film che ha un debito molto forte con la realtà, non può discostarsi più di tanto, però insomma, invece è un film profondamente personale che riesce a tenere insieme appunto la necessità di raccontare una storia che tutti conosciamo, che non c'era mai stata raccontata con tanta, con uno sguardo appunto così ampio e così insieme profondo, e al tempo stesso tutto suo, proprio molto di Bellocchio, sui temi della fedeltà, del tradimento. È facile ricongiungere a quanto Bellocchio aveva fatto fino a quel punto, ed è cosa non ultima, insomma, un film anche capace di comunicare con un vastissimo pubblico, come uno degli altri grandi film che mi dispiace di non poter mettere tra i 5, che è Parasite, naturalmente. Lo mettiamo come menzione. sì, se vogliamo, sì, certo, perché insomma sono tanti film che avrei avuto appunto, se i 5 fossero stati 10, avrei citato Parasite, avrei citato Cominciare la spia di Polanski, avrei citato Il Marriage Story di Baumbach, avrei citato C'era una volta Hollywood, anche se non ho ancora fatto pace con quel finale che secondo me è una bestemmia, ma invece così ha voluto, insomma, è stato Tarantino, piace a tutti, sono di pochi a cui questo, quel finale fa problema, insomma. È vero, è bellissimo. Però a me mi ha messo molto a disagio, voglio dire, perché lui succhia tutta l'adrenalina, il terrore, l'orrore, il dolore per il ricordo di questa morte atroce, e poi alla fine la nega, la ribalta, una piroetta, però ci dà in pasto le morti atroci di questi potenziali assassini, perché nella storia hanno fatto la strage, non hanno ancora ucciso nessuno, insomma, secondo me, ecco, non lo so. Ma Tarantino è così, prendere o lasciare. Però il resto del film era per me fantastico, quindi non avrò un problema. Altro grande film, Burning di Lee Chang-dong, per quale altro grande film coreano sicuramente. Mm-hmm. E poi ci sono dei film trascurati di cui nessuno si ricorda mai. Uno è Death Note di Kantemir Balagov, russo, ma di una repubblichetta poi neanche, se disconosciuta, ma neanche veramente russo, allievo di Sokurov, uscito quest'estate alla Chetichella, sta per arrivare in sala il suo nuovo film, La ragazza d'autunno, non perdetelo per chi stesse ascoltando, insomma è una delle grandi sorprese di questi anni, un regista poco più, se non addirittura poco meno che trentenne, ora non ricordo, insomma giovanissimo. Mm-hmm. L'altro grande film trascurato invece è stranamente perché è di un divo quasi americano, che si affre, che ha messo in sala, ho portato in sala un film bellissimo, si chiama Line of My Life, è stato appunto nelle sale italiane, almeno a Roma, una settimana, neanche due, neanche i proverbiali 10 giorni, una settimana e poi è sparito, eppure era una delle sorprese dell'anno, ecco, quindi vorrei che ci si ricordasse anche di questi film qui. Senti, complessivamente l'annata? Ma complessivamente una buona annata, fra l'altro appunto stiamo vedendo dei bei film di Natale che stanno anche funzionando col pubblico, ora arriverà, sono molto curioso di vedere che succederà con Checco Zalone, che mi direte cosa c'entra Checco Zalone, ma Checco Zalone ha fatto una cosa abbastanza sorprendente, senza smettere di essere Checco Zalone, ha fatto un film molto schierato, molto rischioso, che rischia di alienargli una parte del suo gigantesco pubblico, spero di no, ma insomma vedremo. Poi sta andando molto bene, sta andando bene Pinocchio, sta andando bene il vecchio film per famiglie, ma secondo me delizioso, che hanno fatto Scarre e Picone, insomma abbiamo dei prodotti, poi fino a pochi anni fa ci si vergognava, come dire, del cinema italiano a Natale, quest'anno proprio no, insomma, questa è una novità che va segnalata in qualche modo. Poi, aspetta, andando veramente di palo in frasca, scusate perché me ne sono dimenticato, un altro dei bellissimi film italiani di quest'anno era Il sindaco della Regione Sanità di Mario Martone, altro grande ritorno dopo la prova, come dire, controversa di Capri Revolution, beh qui questo Eduardo modernizzato, ma fedele quasi alla lettera, al testo, questi attori strepitosi, insomma, mi ha mostrato più. Per me era un altro dei grandi film dell'anno, sicuramente un segno di vitalità, insomma, di un cinema come il nostro, che continua ad avere dentro tantissime anime diverse, e però questo è il suo limite insieme alla sua ricchezza, cioè siamo insieme, non abbiamo la forza d'urto, la massa critica che potremmo avere se il nostro cinema fosse meno scordinato, insomma, più compatto, ma dall'altra parte appunto è questa la ricchezza. Ci sono tanti registi molto diversi, anche il Martinet di Pietro Mascelli, ovviamente è un bellissimo film, per quanto, malgrado una seconda parte decisamente non all'altezza della prima, insomma, meno, però c'è un altro bel segno di vitalità. E poi ricordo anche, se non l'avete già fatto, che insomma appunto questa cosa viene anche riconosciuta nel mondo, il grande omaggio alle sorelle Rohrwacher, che è in corso o appena concluso insomma a New York, vabbè, è una testimonianza importante che è giusto ricordare. Fabio, allora è sempre un piacere, un abbraccio, auguri e ci risentiremo nel corso dell'anno. Certo, ciao Federico. Ciao, un abbraccio. Ciao a tutti. Ciao. Un abbraccio. Con Giorgio Gosetti per parlare dell'annata cinematografica 2019 e anche sapere quali sono i 5 film preferiti da Giorgio tra quelli usciti in sala. Giorgio, ben trovato e auguri. Auguri tantissimi a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Che dici di quest'anno? E dopo, perché mai come quest'anno mi sono sembrate felicemente lunghe le feste. Tutti dicono che è stata una bellissima annata, perché gli incassi sono in realtà saliti, perché c'è stato il primo tentativo di aprire la stagione estiva, eccetera, eccetera. E io sono inevitabilmente dello stesso parere per tanti versi, per altri segnalo due cose. Intanto direi che è stata l'annata degli ottuagenari, che è un'idea a doppio tema, nel senso che uno può dire, beh, non abbiamo ricambi generazionali, per cui i vecchietti sono i più bravi, in parte è vero, l'altra cosa è che se Dio vuole non tutti i vecchietti rincoglioniscono, cioè possono essere bravi, capaci di avere idee, capaci di rinnovarsi quanto e più di quelli più giovani. Quando dico vecchietti penso a gente come Scorsese, Polanski, Marco Bellocchio, perché no, Pupiavati. Dopodiché non c'è dubbio, ha ragione Donato Carrisi quando dice che noi abbiamo come italiani invece un problemino non da poco, e cioè abbiamo una quota di mercato molto ridotta e non tante idee in circolazione, e forse non tante idee in questo momento arrivano neanche dal resto del mondo. Il cinema francese, dopo un momento molto caldo, in realtà si è un po' ripiegato su se stesso, almeno nei gusti del pubblico italiano, e tutto sommato anche si può dire che non arriva tantissimo da un resto del mondo che non siano i grandi conglomerati americani. Quindi è un ritratto in bianco e nero, tutto sommato, quello che facciamo, ingentilito dal fatto che andando in giro per il mondo si sono viste invece cose molto belle, e che pian piano, e questa è una cosa bella del mercato italiano, un po' goccia a goccia, ma cominciano ad arrivare. Faccio un esempio per tutti, il film di Kore-eda, visto da pochi, ma uscito lo scorcio di dicembre, era un film del 2017, e che però per fortuna qualcuno ha avuto il coraggio di portare anche in Italia. E faccio un altro esempio di uno dei miei film favoriti di quest'anno, che è Il paradiso probabilmente di Elia Suleiman, festeggiato non a mio parere quanto si meritava già a Cannes, e che anch'esso è riuscito ad arrivare sugli schermi italiani un po' di straforo, ma alla fine dell'anno. Senti, tra i tuoi, poi puoi procedere chiaramente o in ordine di importanza oppure random. Io intanto ti dico i primi due su cui non ho esitazioni, che sono L'ufficiale e la spia di Roman Polanski, che è bello anche considerare che è un film che si è fatto e anche con larghezza di mezzi su scala internazionale, ma molto per merito di un italiano, forse l'italiano più irregolare, discusso e polemico che esista, cioè Luca Barbareschi, che però però in questo frangente è stato veramente un produttore straordinario e un convinto sostenitore di un'idea, di un libro, di un regista, di un film, che a me personalmente ha profondamente sorpreso proprio per la vitalità e l'intelligenza di un ottantenne come Polanski nel fare un cinema apparentemente molto classico e in realtà molto rivoluzionario, secondo me, persino dal punto di vista della scrittura e della forma. Dietro c'era un libro fantastico di Harris, però c'è proprio anche un regista, se uno guarda e riguarda il film, a mio parere scopre che non è un film di confezione, non è un film d'epoca, non è un film di scenografie e costumi, è tutt'altro. E il secondo film che metto lì, appunto, anch'esso è di un ottuagenario, perché sto parlando del Traditore di Marco Bellocchio, che vi ha appena festeggiati, sembra un sessantenne per la verità incrociarlo anche come testa, ma insomma, forse lo è in realtà un sessantenne. Il Traditore è un film che ha lasciato in parte anche divisi, noi italiani abbiamo fatto un gran tifo, all'estero c'è chi lo ha amato molto, chi lo ha guardato con più distacco, ma per un motivo molto semplice, perché è un film dell'antiretorica e dell'antiepica, cioè costruire un intero film su un protagonista per cui, a cominciare dal regista, non si può fare il tifo, non si può considerarlo un eroe, tocca ricordarsi bene e chiaro sempre che è un traditore, e forse di una sua causa idealizzata, e forse un traditore a fin di bene, ognuno la veda come vuole, ma insomma il film è molto freddo nell'analisi e questo rende meno empatico apparentemente il rapporto fra lo spettatore e Tommaso Buscetta alias Pier Francesco Favino, che ormai si specializza in queste maschere sempre più credibili. Adesso lo aspettiamo col film di Gianni Amelio nei panni di Bettino Craxi. Curioso parallelo, tra le altre cose sarà divertente metterli un po' a confronto i due film, anche perché bene o male non sono la stessa generazione di registi, ma sono lo stesso ceppo di registi italiani che, mi piace dirlo, riscoprono il piacere profondo di guardare la storia e di guardare come dire, la dimensione sociale delle persone, cosa che il cinema italiano ha troppo a lungo dimenticato. Il Traditore, secondo me, è un altro esercizio di cinema veramente straordinario, proprio per questa capacità di entrare e uscire dalla retorica, senza mai farsene prigionieri. E qui siamo a due. Il terzo è cosa complicata, perché verrebbe naturale dire The Irishman di Martin Scorsese, uno dei film favoriti per l'Oscar, un film di cui molto si è parlato anche per la produzione Netflix e la contesa Netflix, il fatto che poi in realtà la casa di produzione abbia aperto delle finestre più lunghe per la conservazione in almeno alcune sale cinematografiche, però in realtà meno lo hanno visto di quanti il film si meriterebbe, e vederlo su uno schermo televisivo, per quanto grande sia, è forse un po' punitivo. Il film a me piace tantissimo, però non c'è dubbio che invece in questo caso è un film di bilancio, è un film senile nel miglior modo possibile, e mi verrebbe da accoppiarlo a Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen, che secondo me è tutt'altro che un Woody Allen minore, è un film abbastanza straordinario, molto più spesso di quanto non sembri nella dimensione giocosa e apparentemente sorridente con cui è confezionato. Alla fin fine però entrambi i film sono indubbiamente due fini di partita, poi i registi continueranno, i registi cambieranno spartito, si rinnoveranno ancora, ma certamente entrambi sembrano essere messi lì a guardarsi nello specchio e a chiudere una parabola. E quindi per una volta faccio un gesto sconsiderato e quindi li tolgo tutti e due di classifica, pur dicendo che li amo profondamente tutti e due. Tolgo anche il film dei film, cioè Joker, che è un film a sua volta molto interessante, uno perché nessuno avrebbe mai scommesso che un buon artigiano come Todd Phillips improvvisamente si scoprisse autore citatorio, sprofondato nel cinema americano della New Hollywood degli anni 70 e poi pensoso e poi articolato. Indubbiamente è stato un grande successo, indubbiamente è stato un grandissimo successo della Mostra di Venezia, perché convincere una major americana ad andare in concorso a Venezia con un film apparentemente, diciamo così, serial organizzato sul genere dei supereroi non era cosa facile. Ci sono riusciti, lode ad Alberto Barbera, lode alla Warner di averci scommesso sopra, lode a entrambi perché poi festeggeranno agli Oscar. Il film è anche molto interessante perché, facendo una riflessione, diciamo così, politica, è la prima volta che, a mio parere, il cinema ci ha spiegato che cosa sono gli haters, cosa sono gli odiatori seriali. È il primo film che ci ha messo davanti a un altro tipo di specchio, cioè alla parte peggiore della nostra società. E di nuovo è un film che è riuscito in qualche modo a organizzarsi intorno a un personaggio negativo. Dovessi dire che c'è un filo rosso, se ci pensate, l'eroe Dreyfus di Polanski è un uomo molto antipatico, come era nella storia, l'eroe Tommaso Buscetta è un mafioso assassino nel film di Bellocchio e nella realtà, l'eroe Joker è un assassino e uno psicopatico totale. Ecco, rispecchiarci e guardare a distanza questi modelli, molto diversi fra di loro, nel caso in particolare di Joker, secondo me è una grande lezione a un certo tipo di populismo cattivo che ha invaso tutto il nostro mondo, dall'America all'Italia. E allora, siccome mi restano in realtà tre posti da giocarmi, me li gioco in maniera diversa e qualcuno protesterà sicuramente. E allora metto volentieri dentro il film che certamente vincerà l'Oscar per il miglior film straniero, che è Parasite di Bong Joon-ho, film coreano, oddio i coreani, che noia, noia, molto divertente, il film è una commedia satirica che sembra fatta da Mario Monicelli, il film è acuto, il film è anche un po' furbone, nel senso che è fatto per una platea occidentale che capisce volentieri e accetta volentieri questa specie di lotta di classe, non a Beverly Hills ma intorno alla grande città, la megalopoli coreana, Seoul. E però è un film che è un, insomma, è bello che esista roba del genere ed è bello che il pubblico lo abbia scoperto anche in Italia. Quindi terzo mettiamo Parasite. Quarto e quinto io vorrei mettere due film sorpresa. Allora, il quarto secondo me è abbastanza facile, è Yesterday di Danny Boyle. Film facile, semplice, ma ci vuole una grandissima intelligenza per costruire su una battuta di spirito. E se uno rinascesse in un mondo in cui nessuno conosce i Beatles, e però organizzare una storia che tiene, che funziona e che costa 2 lire e incassa un sacco di soldi, che è un cinema d'autore ma è estremamente ben iscritto nel genere, diciamo così, della commedia romantica. Beh, insomma, non era da tutti, secondo me Danny Boyle ci è veramente riuscito. Quinto posto, se la battono due film francesi, sta per dire, uno è La sorpresa di fine d'anno, Il mistero Harry Pick, che però è soprattutto il film di un attore, il film di Fabrice Lucchini. Dall'altra parte, l'ho appena citato, Il paradiso probabilmente di Elia Suleiman, che è ancora una volta il film di un attore, Elia Suleiman. Pochi dei nostri ascoltatori probabilmente l'hanno visto, per favore recuperatelo almeno in Blu-ray, quel diavolo che volete, streaming, perché è un film come non si vedeva dall'epoca di Jacques Tati ed è un film di una dolcezza e cattiveria assoluta sulla nostra immaginazione degli altri, quindi alla fin fine lascio a lui l'ultimo posto disponibile. Giorgio, è sempre un piacere, ci sentiremo nel corso dell'anno, un abbraccio e auguri. Vi abbraccio, tantissimi auguri anche al programma che è bellissimo e meno male che esiste. Grazie, ciao. Auguri. Con Nicola Falcinella per un bilancio dell'annata cinematografica 2019 e per sapere anche quali sono i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala. Nicola, auguri e ben trovato. Auguri, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Raccontaci un po'. Ma secondo me è stato un anno buono per il cinema, un'ottima annata, citando un film di qualche anno fa. soprattutto, cioè, a parte ci sono stati tanti film interessanti, anzi anche tanti film belli, ma la cosa forse che ho rilevato è che c'è stato un ritorno del cinema, del discorso culturale, cioè che il cinema è tornato a fare parlare di sé anche tra la gente comune, non soltanto tra gli addetti ai lavori, come forse non accadeva da tempo. Ci sono stati dei film che sono diventati dei piccoli fenomeni che tutti hanno voluto vedere e tutti hanno voluto parlarne, penso a Joker. E quindi questo mi sembra positivo. Ci sono stati dei film che hanno incassato molto, come Re Leone. Ci sono stati anche film più di nicchia che hanno creato un fenomeno intorno a sé, tipo Parasite. E quindi nell'insieme mi sembra un'annata positiva, perché il cinema, purtroppo, dico io, questi anni aveva un po' perso la centralità, a favore anche soltanto delle serie televisive. E invece quest'anno, certo, le serie televisive continuano a essere il fenomeno del momento, la moda del momento, però il cinema in sala, la fallback del lungometraggio per la sala, mi sembra avere ritrovato un certo smalto. Merito anche di film di Tarantino, di Scorsese, anche se poi Scorsese ha avuto una destinazione per la piattaforma online, però comunque sono tutti film che hanno lasciato un segno, che hanno fatto parlare, e questo mi sembra positivo. Cosa ti è piaciuto? Me ne sono piaciuti tanti, infatti faccio un po' fatica a restringere la lista. Forse il mio preferito dell'anno è C'era una volta a Hollywood, perché è un film che ho visto 3 volte, devo dire, che avrei ancora voglia di vedere. E forse appunto nei tanti film che mi sono piaciuti, forse i film che ho scelto sono quelli che ho visto, ho rivisto e magari avrei ancora voglia di rivedere. Quindi C'era una volta a Hollywood, la capacità narrativa di Tarantino, e poi anche questo sua capacità di utilizzare i suoi stilemi, le sue caratteristiche, penso, non so, al suo feticismo dei piedi o le musiche, senza mai diventare uno stereotipo, senza diventare maniera di riuscire a fare un racconto fresco, anche molto lungo, però di ampio respiro e riuscendo quasi a reinventare ogni volta il suo modo di raccontare, di filmare, pur mantenendo appunto il suo stile. E poi un altro film molto lungo che è The Irishman di Scorsese, che è un'ultima parte memorabile, è stato considerato un testamento poi anche per l'età di Scorsese, però è comunque una somma di tutto quello che ha detto, che ha fatto in questo genere mafioso. È un film anche sorprendente e molto, molto emozionante. Poi metterei L'ufficiale e la spia di Roman Polanski, per la capacità di raccontare, di affrescare un momento storico molto importante della storia francese ed europea, e anche questo però senza limitarsi a illustrarlo, ma riuscendo a farlo respirare dell'attualità, e con una messa in scena molto rigorosa, molto classica, però anche molto, molto precisa, puntuale. E poi metterei I figli del fiume giallo di Jean-Ké, che forse non è il mio preferito tra i film del regista cinese, però lui è comunque uno dei registi più importanti di oggi, che riesce a raccontare le trasformazioni della Cina come forse nessuno, e la Cina, c'è neanche bisogno di dirlo, che sia il paese cruciale del presente. E quindi questo film che racconta più periodi, la storia cinese recente e contemporanea, e riesce a collegare le storie personali con la storia con S maiuscola, mi sembra importante da menzionare. E poi chiuderei, un po' fatica appunto perché metterei tanti film da Dolori Gloria di Almodovar verso Joker, chiuderei con Il Corriere di Clint Eastwood, un po' per amore per il regista, e anche perché è un film che lo racchiude anche questo, è stato letto come un testamento, ma nel frattempo Eastwood ha già un altro film pronto che arriverà tra poche settimane, e Eastwood è uno che ha quasi 90 anni e suona quasi un film l'anno, e lo si dà per appunto per pronto a lasciare il suo testamento da tanto tempo, forse dai tempi di Gran Torino, forse da prima, e lui imperterrito continua ad andare avanti e fare un film più bello dell'altro, e appunto metterei Il Corriere con il suo carico di malinconia, ma anche con appunto questa voglia che ha del personaggio ma anche del regista di dare tutto fino alla fine, di trovare sempre qualcosa di uno stimolo nuovo. E poi è stato, e questi sarebbero i cinque film, e lascerei fuori gli italiani perché meritano secondo me un discorso a parte, perché mi sembra sia stata una bella annata anche per il cinema italiano, sia nel campo del documentario che forse nelle classifiche di fine anno risulta poco, e anche nel campo della finzione ci sono stati diversi film buoni. Io ne volevo segnalare tre, sì. Cioè, ho tre preferenze tra cui faccio un po' fatica a decidermi, che sono Il Traditore di Marco Bellocchio, che sono La Baranza dei Bambini di Claudio Giovannesi e Pinocchio di Matteo Garrone. E Il Traditore è un filmone, Bellocchio riuscito a raccontare la storia recente italiana, a fare un film di mafia, a fare tante cose dentro lo stesso film, a dirigere Favino e gli altri attori in maniera superba. Credo, cioè, Il Traditore, credo che per capire l'Italia recente degli ultimi 40 anni, 50, sia un film importante. Giovannesi, forse se c'era bisogno soltanto di un'ultima conferma, mi sembra il talento migliore che abbiamo tra i quarantenni. Dopo Fiore si conferma, cioè la sua carriera è sempre andata in crescendo, sempre progredito da un film all'altro, e La Baranza dei Bambini, che finalmente ha avuto un palcoscenico internazionale in concorso a Berlino, mi sembra un punto d'arrivo che però equivale anche a un punto di ripartenza, e mi sembra che Giovannesi sia riuscito a raccontare la criminalità a Napoli in una maniera un po' diversa dal solito, staccando dagli stereotipi e riuscendo allo stesso tempo a fare un racconto di iniziazione di un ragazzino, che poi i ragazzini sono un po' i giovani, sono il modo in cui sa raccontare i giovani e i ragazzini, è forse la sua caratteristica migliore, una delle cose, uno degli aspetti migliori del suo cinema. E invece Pinocchio, anche perché sono molto contento, c'è al botteghino che sta ottenendo dei bei risultati di pubblico, uno dei film più visti del periodo delle feste. Mi sembra che Garrone sia riuscito a affrontare questa sfida che era difficile, molto difficile, trovando nella fedeltà al testo il modo anche per renderlo suo personale, senza fermarsi all'illustrazione, ma riuscendo a mettere insieme la fantasia e il realismo, e mettendoci anche delle tematiche che appartengono un po' a tutto il suo cinema. Non lo vedo come una discontinuità rispetto al film del passato, ma Pinocchio è un po' l'oggetto dell'amore, un po' come era stato in Primo Amore, di forgiare l'oggetto dell'amore, di avere qualcuno a propria misura, e dall'altra parte di farsi formare, di fargli adattarsi per amare, quindi di trovare una forma più adatta per ricevere amore. E insomma, anche la storia di Pinocchio la si può leggere in tanti modi, ma anche una ricerca di un modo per essere amati. quindi questi tre scelgo l'occhio. Nicola, allora un abbraccio, ancora auguri, speriamo di risentirci durante l'annata cinematografica 2020. Va bene, io ci sono. Ciao, un abbraccio. Un abbraccio, auguri, tanti auguri a tutti. Con Federico Pontigia per un bilancio dell'annata cinematografica 2019 per sapere i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala. Federico, ben trovato e auguri. Ben trovato anche a te e auguri a tutti. Allora, i film devono essere usciti in sala? Sì. Allora ne levo già uno che secondo me è il miglior film dell'anno, lo vedremo, sarebbe dovuto uscire questo dicembre, probabilmente arriverà a gennaio o febbraio, ed è The Wild Goose Lake, l'abbiamo visto in concorso a Cannes di Yao Linan, arriverà distribuito da Movies Inspired. Allora, levato questo, tra i film che mi sono piaciuti dell'anno partiamo innanzitutto dagli italiani, dove metto Pinocchio di Matteo Garrone, perché non è di certo il capolavoro del regista, ma è un film importante proprio per la sfida che riesce ad accogliere, secondo me anche a vincere, quella di fare uno dei progetti più sfigati di sempre, cioè che basti pensare Occhio Pinocchio di Nuti o il Pinocchio dello stesso Benigni, e riesce a fare qualcosa di più che dignitoso guardando per la prima volta realmente a un pubblico femminile, quindi alle famiglie. Da questo punto di vista Garrone cambierà un po' le asperità, le asprezze, che poi sono veramente più affascinanti del suo cinema, ma non viene meno le sue ossessioni. Pensiamo anche a tutto il metamorfismo che un po' ricordo Ovidio, un po' a Puleio nel rapporto tra animalità e umanità. Quindi questo è un film che mi è piaciuto. Tra gli italiani segnalo anche nell'anno Sole, l'esordio di Carlo Sironi, che abbiamo visto prima ad Orizzonte a Venezia e poi in sala, che replica le cose migliori dei Dardenne, quando i Dardenne erano i Dardenne, con una storia che parla di amore, parla di maternità, parla di paternità culturale e non biologica, e lo fa appunto con una forma molto controllata, un grande lavoro sia sul quadro che sui silenzi più che sui dialoghi, quindi è un esordio promettente, un autore Sironi da seguire. E tra gli italiani anche Bangla di Fahim Buyan, un esordio, io l'ho visto a Bari al Bifest in anteprima, poi è uscito in sala, ed è un film interessante, una commedia che parla di seconde generazioni, parla di integrazione, ambientata a Torpignattara, e lo fa con anche la sfrontatezza, il disincanto di un Moretti degli esordi. Quindi Buyan è un altro giovane autore da ricordare. E invece tra i film che più mi hanno convinto nell'anno uscito, innanzitutto quello di un autore che di solito non mi convince mai, ne vedo sempre più difetti che pregi, Pedro Almodovar, ma che con Dolori e Gloria secondo me è tornato ai vertici della sua arte, un grandissimo Antonio Banderas, tanti elementi autobiografici per una riflessione metacinematografica e anche artistica, no? Sull'arte vita e sulla vita arte attraverso anche la malattia, ma malattia non tanto in termini clinici, medici, ma più dell'anima. Un grande film che forse non ha avuto tutto quello che meritava, perché ha catalizzato un po' i premi, gli allori e anche qualche volta gli incensi critici più Banderas, peraltro bravissimo, ha vinto sia a Cannes sia agli IFA, che vedremo se riuscirà a strappare anche una candidatura agli Oscar, una cinquina, però anche Almodovar, anche il regista, ha compiuto qualcosa di davvero interessante. E poi da ultimo, anche per citare un film in sala, è stato questo l'anno in cui le stanze del Me Too, di Time's Up, le stanze femminili, se vogliamo femministe, hanno continuato ad animare anche il dibattito intorno al cinema. Ebbene, mi piace ricordare un film che queste dinamiche, queste tematiche, come dire, le prende, le fa proprie, ma senza abdicare mai alla forma prima. Il contenuto, l'attenzione per il femminile, women's empowerment, eccetera, arrivano dopo, ed non è un ritardo, una piacevole evenienza. Dopo lo stile parlo del ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma, una regista che avevamo già apprezzato sia dietro La macchina da presa, ricordo soprattutto L'esodio Tomboy, e anche come sceneggiatrice Una vita da zucchini, e che qua dirige Noémie Merlan della Enel, la nostra Valeria Golino, tornando indietro nei secoli, inquadrando l'amore proibito tra due ragazze, quella del titolo e quella che ne dovrebbe eseguire il ritratto, ma lo fa guardando all'oggi con due piedi, nell'oggi e la testa anche alla storia del cinema. È un film in cui gli uomini sono parentetici, seppure la loro presenza negativa si faccia sentire. È un film girato splendidamente, l'abbiamo visto in una concorsa a Cannes dove ha preso anche il premio per la sceneggiatura, e in sala, ecco, fate vedere bene, andate a vederlo, così come Pinocchio. Federico, è sempre un piacere, un abbraccio, auguri e speriamo di risentirci. Ciao. Certo, auguri. Con Roberto Silvestri per un bilancio dell'annata cinematografica 2019 e per sapere anche quali sono i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala. Roberto, auguri e ben trovato. Auguri anche a te. Allora, panoramica dell'anno, beh, insomma, il grande momento è stato lo scontro tra Scorsese e Marvel Movie, no? Dell'anno, cioè quando Scorsese ha detto è sempre più difficile per noi ormai, a parte lo streaming, lavorare con dentro il sistema produttivo distributivo, perché se guardiamo gli incassi di tutto il millennio e di tutto il terzo millennio, vediamo che i primi 50 posti ci sono appunto i colossal super tecnologici Marvel, oppure i cartoni animati della Pixar, Disney, e poi questa fusione Disney-Fox che in qualche modo rappresenta un monopolio quasi totale, mondiale, globale della produzione e della distribuzione del cinema, per cui è sempre più difficile fare film diretti e pensati da uomini per gli uomini, no? Il cinema sta diventando sempre più macchine che parlano alle macchine, in posto umano. Però devo dire che nonostante questo anche il sistema Marvel produce a volte dei film eccellenti, penso a Guardians of the Galaxy, Black Panther, e anche uno dei film della mia classifica dei 5 forse è qualche cosa che ha a che fare con macchine che parlano a macchine. Però certamente è interessante il fatto che Netflix sta cominciando a diventare, come un tempo HBO 20 anni fa, un punto di riferimento creativo molto importante, e Scorsese stesso con Irishman è stato molto prodotto da Netflix, mentre ormai pochissimi rimangono i cineasti che riescono a entrare nel grande giro del cinema, e penso a Clint Eastwood. Per cui tutti questi avvenimenti, in Italia c'è Fuori Norma, no? Che raccolgono e distribuiscono film indipendenti, autonomi dal punto di vista del linguaggio, dal punto di vista della proprio sensibilità delle immagini, vanno sostenuti. Le tue preferenze? Allora, le mie preferenze, dunque, direi che il film più bello dell'anno è Il Paradiso probabilmente di Elia Suleiman, che è un regista palestinese di studi newyorkesi, che applica il sistema Buster Keaton di indagine sugli errori del mondo, e ci mostra una specie di palestinizzazione generale del globo, dove Parigi e l'America hanno incorporato dei sistemi di protettivi armati e di controllo sulla vita delle persone, che sono molto simili a quelle di un abitante come lui di Nazareth, palestinese di passaporto israeliano, che vede persino il suo giardino diciamo migliorato da un vicino di casa piuttosto ingombrante che gli occupa la sua terra per fargliela più rigogliosa e più bella, che è un po' una metafora di come gli israeliani, no, a poco mangiano, distruggono e si impadroniscono, per migliorare naturalmente, la terra che non è loro. Quindi Il Paradiso probabilmente è un vero film comico disperato sui mali del mondo di oggi. Poi, a proposito di persone che non meritano, quindi questo è primo. Secondo, direi Vitalina Varela, un film di Pedro Costa che difficilmente vedremo nelle sale. E Pedro Costa è un regista portoghese a cui un connazionale, Julio Alves, ha dedicato un bellissimo documentario che si chiama Sacabem, che un po' racconta il suo metodo di produzione, una specie di sceneggiatura fatta alla Warburg, con immagini dopo immagini che riguardano un po' il mondo in cui viviamo, pezzi di giornale, articoli, fotografie, e questi sono i suoi copioni. E poi lui continua a dedicarsi a questa parte di Lisbona, che è una delle più derelitte della città, Fontainhas, che è un quartiere che ormai è sempre più macerie su macerie, ma dentro le macerie, nell'orrore degli orrori, nella popolazione più emarginata di Lisbona, riesce a far capire un po' la disperazione del mondo di oggi, che riguarda il 99% delle persone più o meno, attraverso questa comunità di emigranti da Capo Verde e dall'Africa ex portoghese, riuscendo miracolosamente a raccontarcela facendone vedere la difficilissima bellezza, una bellezza un po' che ci ricorda le mutazioni di Calvino nelle periferie, no? Si possono trovare le bellezze anche nelle parti più mostruose del mondo. Terzo posto per Star Wars, L'ascesa di Skywalker, episodio 9, J.J. Abrams, appunto, un film che secondo me mantiene ancora lo spirito di John Smekas e dei Beat, della Beat Generation, cioè la disperazione del mondo di oggi ci costringe a fare dei viaggi all'interno di noi stessi, che all'interno di noi stessi poi vuol dire fare dei viaggi generazionali alle origini dell'uomo, all'origine del mondo, allontanarci sempre di più dalla contemporaneità per ritrovare barlumi di bellezza antichi e dimenticati, addirittura nella notte dei tempi, nel dark dello spazio, delle galassie, all'interno di questo riuscire a costruire delle favole che sono sempre però antitetiche agli stereotipi, e quindi un grandissimo, forse più bravo Adam Driver del American Marriage in questo ultimo capitolo con gli happy end di Guerre Stellari. Quarto, Il Sindaco, del Rione Sanità di Mario Martone, che mi sembra il film italiano più interessante, molto nella linea di Guadagnino, no? Cioè, pezzo di Edoardo De Filippo, che naturalmente negli anni 60 non poteva far capire tutto, e cioè che questo sindaco era proprio camorrista, addirittura mafioso, addirittura forse Ligio, no scusa, anche Luciano, che dominava Napoli. E quindi, Mario Martone, no, rompe il sipario, fa capire tutto quello che c'era dietro questo terribile e bellissimo, no, dramma di un'umanità che cerca ancora di trovare dei valori seri. Mm-hmm. Martone lo ha fatto con un rapporto documentario teatro fantastico, vi ricordava anche l'ultimo Jonathan Demme. Quinto, ex aequo, C'era una volta Hollywood, Jacques ed Irishman, cioè Tarantino, Polanski e Scorsese, magnifici film di una bellezza da maturità espressiva, di fraseggio, di struttura, cioè dei veri capolavori. Roberto, allora io ti ringrazio, un abbraccio, auguri. Ciao, e auguri, ci sentiamo auguri durante l'anno 2020. Auguri a Radio Onda Rossa. Ciao. Ciao caro. Ciao. Con Ginella Vocca per fare un bilancio dell'annata cinematografica 2019 e per sapere anche quali sono i suoi 5 film preferiti tra quelli usciti in sala. Ginella, ben trovata. Ben trovato e buon anno. Auguri. Si può dire auguri, quindi buon 2020. Parlando del 2019, dei film usciti in sala, è sempre difficilissimo scegliere. Ma allora che si fa? Poi per me con il lavoro che faccio è complicato, allora scelgo in base alle emozioni. Quindi parto da lontano, perché diciamo che per arrivare a fare un festival devo vedere tanti tanti film. Poi c'è tutto un periodo in cui non sopporto più andare al cinema, e invece in genere inizio l'anno. E l'anno è iniziato benissimo per me da un punto di vista emotivo, perché ho visto Van Gogh sulla soglia dell'eternità. Beh, è un film che è andato oltre l'amore per il film, è un film che mi ha davvero emozionata. Una gran prova d'attore anche. Sì, Safa Sandir, cioè lui veramente era Vincent Van Gogh. A parte la somiglianza, lui ha proprio ingoiato questo personaggio, era proprio lui, era Vincent Van Gogh, l'ha proprio sentito al punto di farmi dimenticare che avevo di fronte quello straordinario attore. Per cui il film nella sua espressione è per me perfetto. Guarda, per me è difficile dilungarmi, so che il regista aveva fatto anche un altro film che non ho visto su Bastiat, anzi guarda, ripensandoci è il caso forse che io lo ripeschi, perché sì, dovrebbe essere molto quello. Bello anche quello, sì. Poi con un personaggio come Bastiat. Però, insomma, tornando alla mia sintesi, proprio asciutta, io inizio con questo film che mi ha dato delle bellissime emozioni e non mi ha mai stancata, mi ha tenuta su un racconto non racconto per tutta la durata, lasciandomi poi tra le lacrime, ma no, delle lacrime dolcissime, delle lacrime con un sapore proprio legato al sentimento dell'amore, inteso nel senso più assoluto del suo significare. E il secondo film che ho visto e che pure mi ha lasciata molto contenta è stato Il Corriere di Clint Eastwood. Questo film perché mi è piaciuto? Anche qui perché è un film nel suo scorrere perfetto, con dei tempi perfetti, un'interpretazione, un attore straordinario, nonché un regista straordinario di un racconto. Penso sia una storia vera che lui ha trasformato in una storia fantastica. Mi piace il suo modo di essere qui e ora nel presente e non sbaglia un colpo. Tutti vorremmo essere Clint Eastwood, anch'io, e quindi questo è il mio secondo film. Bene. Poi finalmente Una donna, Nadine Labbadie con Cafarnao, Caos e miracoli. Bello. Un film che ha diviso tutti, esatto, un film di cui dici bello o ma qui troppo curato nella forma, un'estetica non autoriale, beh non mi importa nulla, è un film importantissimo, un film che ci racconta tanto di un paese come il Libano, ma ci racconta tanto di realtà che ormai sono così diffuse e note relativamente ai profughi, perché qui si parla di una sorta di campo profughi nel cuore della città, di uno slam nel cuore della città che ospita questi rifugiati e dentro cui accadono in questa realtà, in questo mondo parallelo, accadono cose di cui sentiamo parlare ormai quotidianamente, in particolare la violenza contro l'infanzia, la violenza diffusa anche in situazioni familiari compiute come quella da cui poi fugge il ragazzino, nel senso che c'è un padre, una madre, una casa, per quanto tremenda, fatiscente, ma c'è una casa con dei bambini. E niente, vengono fuori tante cose in questo film, viene fuori il coraggio di questa bellissima donna che è Nadine Labbadie, non a caso è ormai un'artista di fama internazionale, si è imposta, credo che sia il suo terzo film questo qui, un film coraggiosissimo, un film che denuncia mancanze straordinarie del suo paese e lo fa fino in fondo, dando poi quel contentino finale con il ritrovamento del bimbo che è rimasto senza la mamma. Mi dispiace, è un racconto un po' confuso questo mio, però posso dire che al di là della critica che ha storto molto il naso, è un film che io sono contenta sia stato fatto e sono contenta che sia stato distribuito, anche perché sappiamo che da questi paesi arriva poco o nulla nelle sale italiane. Non so, a te è piaciuto Cafarnaum? Molto, molto. Ecco, bene, quindi il mondo si divide tra quelli a cui è piaciuto. Sono molto contenta che ti sia piaciuto. E poi arriviamo a... No, lo voglio lasciare per ultimo. Parliamo dell'Ufficiale La Spia di Roman Polanski. E beh, anche questo è un film dentro il quale sono entrata come in una lettura di quelle proprio da cui non riesci, quei libri da cui non riesci a staccarti. Un film bellissimo, perfetto anche questo, di cui non ti so dire di più, perché ancora è troppo presto forse per me. Non mi ha emozionato come gli altri naturalmente, perché non è questa probabilmente l'intenzione, però mi ha molto preso e mi ha lasciato il tempo di pensare tra le parole e di avere tanta... comprensione per i meccanismi che nel bene e nel male creano dei mostri, sia quando sono degli eroi come nel suo caso, sia quando sono dei bugiardi, dei falsi e degli assassini come nell'altro caso. Però questa invece è una storia che finisce bene, per cui noi diciamo i buoni, tra i buoni, ne escono abbastanza soddisfatti, ma non è questo, tanto sappiamo tutti qual è la storia del caso Dreyfus. Però questo racconto, questo riportare al presente l'importanza di un'ossessione, di una minuziosa ricostruzione, di mettere in crisi le proprie credenze, è un film molto molto bello che è sicuramente tra i miei 5 preferiti. Ecco, sì, Il Paradiso probabilmente di Elia Suleiman è il mio 5º. Come non potrebbe essere così? A parte aver aperto la 25ª edizione del Benzin Festival con questo film, io anche in questo caso è un film perfetto, è un film nel suo silenzio. No, aspetta, mi sono persa, perché questo è un film che proprio a me piace troppo per poterne parlare. Elia Suleiman, il suo modo di narrare, il suo modo di girare, il suo modo di vedere, il punto di osservazione e soprattutto l'assenza di parole. È bello poter capire tutto soltanto stando zitti, ecco, nel silenzio. Film bellissimo, che posso dire, l'ironia, cioè tutte cose che secondo me non sono sufficienti, ma quello che posso dire è ringraziare Academy 2 per averlo preso, per aver avuto il coraggio di prenderlo, di distribuirlo, di provare a fare breccia in un mondo così chiuso come quello della distribuzione italiana. Purtroppo è così. Nessuno più di noi del Mad Film lo può sapere, perché abbiamo la fortuna di fare un lavoro che ci mette a contatto con tanti straordinari film che noi sappiamo bene non essere distribuiti in Italia, unico paese europeo nel quale per esempio un film come Synonym, vincitore dell'Orso d'Oro, non ha trovato posto. Ecco, colgo questa occasione per dirlo ancora una volta, il sistema è veramente distorto, non so quanto consapevolmente, ma questo non mi importa, l'importante purtroppo la cosa grave più che importante è che questi film mancano e di questi film si sente la mancanza, perché se un regista come Nadav Lapid con un film pazzesco come Synonym non trova spazio in Italia, il problema è grande. Così come assurdo che anche Maren Egert, I was at home but, questo è il titolo in inglese, non potrei mai pronunciare quello tedesco, anche questo film noi non lo abbiamo visto, non lo vedremo probabilmente. Gravissimo, perché è un impoverimento proprio del linguaggio, è un impoverimento culturale, sì, in senso più ampio, ma proprio strettamente connesso alla capacità di interpretare un film, di leggere un film, proprio grammatica del cinema. E noi siamo, cioè la maggior parte del pubblico italiano purtroppo è costretto a un'alfabetizzazione limitata a certi sistemi di linguaggio. Però aspettiamo, io ancora non ho visto Die Donne, si chiama Petrunia. Molto bello, molto, ecco, bello. E così come Il ritratto della giovane in fiamme, ecco, sì. Questi due film mi mancano e non vedo l'ora di vederli. potremmo annoverarli tra i film del 2019, perché noi abbiamo sempre un ritardo di 6 mesi, un anno, sulle uscite normali di questi film. So che mi daranno soddisfazione e spero di vedere più donne distribuite nel prossimo futuro. Intanto cominciamo con questi due film. Poi naturalmente avremmo potuto parlare del cinema italiano, che è quello che ci piace, che almeno a me piace, Selfie, Sole, sono film belli che andrebbero un po' più sostenuti nella distribuzione, quello con la T maiuscola, nel senso tante copie, tanti cinema di pubblico di massa, ma questo è tutto un altro discorso che non è il caso di fare qui, non lo vogliamo fare, però andrebbe fatto sempre in ogni circostanza. Perché sai, si parla tantissimo di sostegno alla produzione, ma si parla pochissimo di sostegno alla distribuzione. Cioè si produce, è importante produrre, ma queste cose poi vanno viste, vanno sostenute nell'uscita in sala. Allora Ginella, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo, ci sentiamo nel corso dell'anno. Grazie, fate tante buone cose e noi cercheremo di fare altrettanto, perché adesso cominciamo con 25 più 26. Allora a presto, ciao Ginella. Ciao. Allora, questi 5 film del 2019 secondo 17 votanti. Primo, L'ufficiale e la spia di Roman Polanski con 8 voti e 3 menzioni. Secondo, Parasite a pari merito con Il traditore per Bong Joon-ho e Marco Bellocchio. Poi al quarto posto C'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino con 5 voti e una menzione. E al quinto posto a pari merito con 5 voti Il Corriere dei Mule di Clint Eastwood, Dolori Gloria di Pedro Almodovar e Il ritratto della giovane in fiamme di Céline Sciamma. Con il regista Fabio Del Greco di Indie Cinema per parlare della festa del cinema indipendente a Roma, al Caffè Letterario, giovedì 9 gennaio 2020. Fabio, ben trovato. Grazie Federico, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Partiamo da Indie Cinema, raccontiamo cos'è. Indie Cinema è un canale di streaming nuovissimo, dal 1 dicembre online, che abbiamo voluto creare per dedicare uno spazio, diciamo, per trovare una casa al cinema indipendente, che in realtà non lo aveva. Questa idea nasce da diversi anni di esperienza di distribuzione, più che nelle sale, diciamo, soprattutto nelle piattaforme di streaming, perché sappiamo che nelle sale, insomma, la distribuzione per le opere indipendenti si limita spesso a pochi circuiti, quale Apollo 11 a Roma o Cinecittà di Bologna, eccetera, eccetera, quindi è spesso marginale. Però la distribuzione nelle piattaforme online invece è molto interessante, perché può essere riportata a globale. Solo che le piattaforme generaliste, in particolare Amazon Prime, quella che è l'unica che dà un vero accesso alle opere indipendenti, significa un po' come far varare un piccolo pattino verso l'oceano, insomma, cioè gettare un sassolino in un oceano in modo che sia poi difficilissimo scoprire questi piccoli film, e quindi si ricreano gli stessi meccanismi che differenziano il cinema mainstream dal cinema indipendente. Quindi, insomma, nonostante questa piattaforma come Amazon Prime ed altre diano questa opportunità, abbiamo poi capito che non può essere quella la vera strategia di distribuzione del cinema indipendente. Cioè mancava, insomma, una casa per il film indipendente in Italia, perché negli Stati Uniti ce ne sono diverse di piattaforme in abbonamento dedicate a questo genere di film, però penso sia l'unico paese dove appunto ce ne sono più di una, poi ce ne sono alcune nel nord Europa. Per il resto in Italia di italiano non c'era niente, insomma, tranne Mubi, che però si dedica ai film classici d'autore. Noi invece volevamo creare proprio un canale dedicato esclusivamente al cinema che nasce al di fuori dell'industria e soprattutto rivolto alle opere che hanno un particolare valore di rinnovamento del linguaggio cinematografico, quindi anche opere sperimentali, insomma, che rischiano qualcosa in più e magari potrebbero essere il linguaggio cinematografico del futuro. Presentiamo la serata al Caffè Letterario? Sì, è nostra idea anche appunto creare degli eventi in modo che le persone si possano incontrare, possano conoscersi, possano conoscere gli autori. Quindi questo sarà il primo di una serie di eventi che significa appunto non stare solo a vedere streaming online i film, ma anche incontrarsi e proiettarli sul grande schermo insieme ad alcuni registi che saranno presenti come Federico Mattioni, Federico Iris Tinelli, Massimiliano Perrotta, Emiliano Dante, Valerio De Filippis, insomma ci saranno diversi registi che presenteranno la loro idea di cinema. In questo caso particolare sono tutti film appunto autoprodotti, indipendenti, molto particolari, molto innovativi. È una festa, un modo per stare insieme e soprattutto per promuovere il cinema indipendente. A questo proposito ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? Sì, chi si vuole saperne di più sulla piattaforma si può collegare a www.indiecinema.it e in particolare si può fare un'idea del catalogo vedendo tutti i trailer, le trame, le sinossi dei film cliccando su browse, quindi su sfoglio in alto a sinistra. C'è la pagina Facebook anche del canale, quindi, dove ci sono anche gli eventi, ci si tiene aggiornati, ci sono nuove uscite ogni settimana, uno o due film ogni settimana, per adesso ci sono un centinaio di film, ma diventeranno presto, insomma, molti di più. Quindi c'è la pagina Facebook Indie Cinema Channel, poi c'è anche un gruppo Facebook, da parentesi, se ti vuole si può iscrivere alla mailing list e quindi ricevere tutte le comunicazioni anche via mail. E speriamo, insomma, che questo possa essere un modo per sdoganare il cinema indipendente ad un pubblico sempre più basso. Ricordiamo allora la festa del cinema indipendente a Roma, al Caffè Letterario, giovedì 9 gennaio 2020. Un saluto e un ringraziamento al regista Fabio Del Greco di Indie Cinema. Fabio, un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie, un abbraccio a te e a Radio Onda Rossa. Un saluto. Con il regista Cristian Carmosino per presentare la campagna di crowdfunding per Il Paese degli Uomini Integri a Roma, spazio Apollo 11, giovedì 9 gennaio 2020. Cristian, ben trovato. Ben trovati a tutte e tutti. Ci dici? Sì, allora abbiamo iniziato un progetto, il progetto di questo film intitolato in italiano Il Paese degli Uomini Integri, che è anche la traduzione italiana di Burkina Faso, cioè il paese dove stiamo girando. Abbiamo iniziato, dicevo, le riprese di questo film circa 5 anni fa e abbiamo realizzato un primo reportage appunto nel 2015, che è un lavoro per la televisione che racconta di questa insurrezione popolare avvenuta in Burkina Faso, e successivamente ho continuato a girare fino al 2019 questo film, che invece è un film, diciamo, a carattere più cinematografico, perché rispetto all'altro, che è un reportage appunto che racconta di quella insurrezione, poi io ho seguito 4 persone incontrate durante l'insurrezione, la rivoluzione del 2014, e le ho seguite nei 5 anni successivi. All'inizio il film era prodotto da una produzione francese e da una coproduzione italiana, ci sono stati dei problemi lungo il percorso e quindi ho deciso qualche settimana fa di portare a termine il lavoro, perché c'è una certa urgenza, e l'urgenza è legata a una serie di esperienze, cioè il prossimo anno ci saranno le seconde elezioni democratiche del paese, nella sua storia, e alcuni di questi personaggi affronteranno, diciamo, un anno importante della loro vita. Io voglio concludere il film con le elezioni che si terranno nell'ottobre del 2020. Nel frattempo, negli ultimi mesi, in particolare nelle ultime settimane, si è aggravata notevolmente la situazione. Il paese è sotto, diciamo, sotto attacco, sotto invasione di diverse formazioni di jihadiste legate ad Al-Qaeda, anche a Boko Haram, e per ultimo l'ISIS, che appunto ha le mire nel paese, perché il paese, il Burkina Faso, è il quarto produttore d'oro in Africa ed è ricchissimo di risorse, oltre a essere strategicamente posizionato per tutto un discorso di immigrazione. Il film parla indirettamente di tutti questi temi, perché appunto le quattro persone che sono protagoniste, insomma, attraverso le loro vite noi affrontiamo tutti questi temi. Stiamo cercando di concluderlo, quindi abbiamo lanciato una campagna di crowdfunding 2 settimane fa, cercando di raccogliere i soldi per terminare le riprese durante quest'anno, fare il montaggio e quindi consegnare il film entro la fine del 2020 più o meno. Questo è il progetto. Allora, per fare questo, se mi vuoi interrompere, interrompimi. Per fare questo crowdfunding abbiamo deciso di lanciare una serie di iniziative. Quella del 9 alla Apollo 11 è la prima di queste iniziative. È un'iniziativa importante perché non parleremo solo del crowdfunding del film, ma parleremo di cosa sta succedendo in questi paesi. E questo cosa sta succedendo non è un qualcosa di altro rispetto a noi, ma è un qualcosa di assolutamente attuale, perché, diciamo, il tema che è a noi più vicino e più caro, tra virgolette, è la migrazione, è un tema che ha delle origini, e le origini sono proprio quei luoghi lì, quelle situazioni lì, quindi l'insicurezza, il cambiamento climatico, lo sfruttamento economico che l'Europa, l'Occidente fa di quei paesi che determinano la migrazione. Noi andiamo, quindi l'intenzione è di fare un incontro oggi per parlare di questi temi e per sensibilizzare, diciamo, la campagna del film. Quindi partiamo alle 19 con la proiezione di A Piedi Nudi, che è appunto il film reportage che abbiamo realizzato 4 anni fa. Poi faremo una chiacchiera con Andrea De Giorgio e Roberto Silvestri sulla situazione attuale, spiegando appunto quali sono gli obiettivi del nostro crowdfunding. Poi offriamo un aperitivo a tutti i presenti e alle 21, un bonus, diciamo, presentiamo Cobba Ridder, Caporetto, che è il mio ultimo film, che è stato, diciamo, negli ultimi mesi distribuito in maniera indipendente dal sottoscritto e ha fatto alcune proiezioni in diverse sale, ne abbiamo anche parlato insieme. Certo. Questo è tutto. Ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più? Sì, allora, la proiezione, come dicevi tu, è all'Apollo 11, partiamo alle 19, potete andare sul sito di Apollo 11 con le informazioni, oppure la campagna di crowdfunding, se volete leggere le informazioni sulla campagna e anche fare la vostra donazione, è su Indiegogo, che si scrive Indiegogo.com, andate sul sito e una volta sul sito cercate Land of Upright People o il paese degli uomini integri, vi dovrebbe apparire la nostra pagina e potete fare una donazione. Se avete problemi potete anche scriverci una mail a Land of Upright People @carmosino.com, oppure ci cercate su internet, insomma ci trovate, ci sono vari modi per trovarci, stasera faremo una presentazione di tutto il progetto e daremo anche tutta l'informazione. Ricordiamo la serata all'interno della campagna di crowdfunding per il film Il Paese degli Uomini Integri a Roma, allo spazio Apollo 11, giovedì 9 gennaio 2020. Un saluto e un ringraziamento al regista Cristian Carmosino. Un abbraccio, in bocca al lupo e a presto per le novità. Viva il lupo, grazie, a presto. Con Jaime Barducci, co-regista del film Quale Patria, che sarà in prima proiezione a Cesena al Cinema San Biagio martedì 14 gennaio 2020. Jaime, ben trovato. Ciao Federico, ben trovato, grazie. Raccontaci di questo progetto. Beh, il progetto nasce alla fine del 2017, è un progetto di recupero della memoria. Quindi nasce dalla volontà di tirare fuori dai cassetti